passeggeri informati, benvenuti all'appuntamento con le notizie sulla viabilità e il traffico. Traffico intenso, come solitamente a quest'ora, soprattutto in direzione delle grandi città. Iniziamo a vedere la situazione partendo dalla 4 Torino-Brescia, dove vengono segnalate code, vincoli di Pero e Cormano in direzione di Brescia. Code anche sulla 8, la Milano-Varese, anche qui per il traffico intenso, la Milano, ore 8 e 31 di martedì 8 febbraio 2005. Sto ascoltando Onda Verde, che è un po' una lotteria, come ben sappiamo, nel senso che mi è capitato più volte purtroppo di ascoltare Onda Verde, di ascoltare l'annuncio di un grande ingorgo e prendere delle contromisure sulla base di queste informazioni, per poi ritrovarmi in un ingorgo infinitamente più grande e che rendeva vane tutte le mie contromisure. Su Onda Verde si potrebbe fare un discorso lungo, cerchiamo invece di contenere il tempo, limitiamoci a dire che chiaramente così com'è strutturato, senza alcuna interattività e soprattutto senza alcuna certezza di continuità, è un servizio pressoché inutile. Bisogna avere la fortuna, è un po' come quando si va dall'oracolo e si spera che ciò che dice sia giusto. Mi dispiace dover fare questa critica, sicuramente le persone che lavorano a questo servizio danno magari tutto quello che hanno, con i mezzi che hanno a disposizione, e il fatto è che l'informazione arriva sempre un po' tardi, e poi ci sono anche altre limitazioni abbastanza importanti, per esempio il fatto che l'ordine con cui vengono date notizie è assolutamente determinante, in quanto molto spesso per ragioni di tempo viene tagliata tutta la seconda parte del programma, e quindi praticamente chi ha la fortuna di ritrovarsi nell'area geografica che viene trattata per prima finisce per essere avvantaggiato. Poi si riesce anche a scorgere una logica politica. Ricordate che prima dell'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione della RAI c'era una sostanziale parità di trattamento tra le varie zone geografiche. Oggi invece mi pare che vi sia una preminenza per le autostrade, il che può anche andar bene se non fosse per il fatto che stamattina in particolare sono le grandi zone urbane ad essere toccate dal fenomeno degli ingorghi, al quale chiaramente contribuisco per la mia parte.